Friuli nel mondo, 250esima trasmissione dedicata agli emigrati. Immagini e momenti del Friuli nei nostri scrittori. Questa volta, cari emigrati, vogliamo offrirvi qualche squarcio del meraviglioso panorama del diletto Friuli, attingendo alla prosa e alla poesia di taluno della vasta schiera di nostri scrittori nella parlata materna. Vi sembrerà di ritornare per un momento nei vostri mai dimenticati paesi, ravvivandone il ricordo in questa dolce illusione. Eccovi subito un quadro di Giuseppe Marchetti. Mondisie di Sorumbiar. E gli rare che giornade, vie pesciarade mufose, che si può di giol di un'erraiade di sorelle clip, qualche orut di cil saren, qualche flad di aier net, ma quanche ven, noi è monede che basti a paiale. E par giol di le dute, si squenchiatasi a iesi a tor di udin, in tal miez dal cercli desmonze e dai quei, du là cal finissi il plan e cascomenzi in disgrumbulis, du là che in tune sole voglade, si può chiappa dentro l'alte e la basse, la furlanie di sorelli llevat e che di sorelli amont. I chianai siaraz i enfrilismons a son biei di sta, ma cumò a poi d'insieme a une presons, trente, fra murais ingresignidis di fred. Culì, une volte che si è fur de stradis di città, si ha sotto voi un mond di maravè, une furlanie fatte di veri. La montianine, la mont mariane, la mont di raut, accomparis in netis e vicinadis, tanche i quei di tresesin o quei di pagnà. Di schiasutis di chianeule, di clap o di subit, ingropadis sul prat dut crot, a son a un tir di sclope. I pings di buri, i cipres di feagne, il tor di sante margarite, il chischiel di moruz, se si slunge la man, al par di tocchiaiu. Il tai dal cil, sulla rie de spichis dal ciampon e dal musi, ca fermin il voli come gli sbastidis di un gran cischielon, alle cussi net e cussi crut che nanchi a segnalu cu l'ingiustri. Avegni in tal tiaf, che spituris dal quattricent, plenis di netissie, indulà che il cil alle simpri di una materie tan differente de tiare, e la tiare è alce su, quintri di lui, che gli arboluz duc petenaz come repipings, che i chischieluz plens di spitz e di merlez, che sculinutis lisis come medis di fen, cul penacul di un pin giuste sulla ponte. O che i quadris todescs dal cincent, cul borg feudal insom di un zuc, e un tor a ponte di lapis la via insom. Che i quadris indulà che un bar di nul, alle un bar di nul, e non sbladac. E un len dispueat, alle un len, e non spergot. E un eaghe, e ie un eaghe, e non un snacaiade o un estrade di lacai. I pittors di cumò, a sarambrà spartantis resons, ma con che l'ingrumà pastele penze, con che il distirà sulla tele pantan inculurit, con che il slapagnà tal tocchio di ueli o tal catram disfat, non arrivaran mai ad ore di rindi la purità de nature furlane. I poi, miec discrotats, a puarti insom un ciuf di fueis d'aur. I morars li san color di naranz, i faiars di un ros carminat. E i prats, cul lor verdi sfat, li sgravis cul lor gris di perle, li smonts lontanis cul lor turchin cencemese dancis, a fasin une musiche nude, no disturbade con nessuna orchestrazion, come che di une voz di un frut che chianti di besole. Si reste, fin tremai malapaiazza vio di robis cusi rampidis, e veta l'anime tante confusie, tanti sunsuramenz, tante fumate turbide e pastrochiade. Sulla mon soreli, se si chiale de bande de smons di sclavanie, al po' capità di viodica e là, come un gran fugareli ros, di une luz che in c'è. A son, li sramis di qualche balcon, ca rifletin i ultims rais. E salacor, e ven invidie, di un toc di veri, cal por ricevi e rimandà tant lusor. Facciamo un salto ora nella parte del Friuli che sta sulla destra del tagliamento e confondiamoci con Cesare Bortotto nelle impressioni che egli ci presenta in Di là da laghe. Stradis di polver e di arsure e van su, blanchis e dretis, quintrilis mons, in te pradarie magre di sterps e di glerie che si piarta al soreli. Che smons, ti somen poi adis lì, in fons di che stradis, su l'or de gran pradarie, ma tua sben di chiaminà parrivai fin so. Cavie, su questi stradis, alle un friul di viars, il friul di là da laghe, e sulla boccia di queste in, tu scolti su un lengaz così plen e taront, calquiste un color nuov, un savor di robis antigis. Culì, non le più il friul legri de sculinis, ma ti veng in quintre la planure serie e ruspide, massime d'un viar. Di stat, si senti invece jenfri che il vert spes e tialt, la tiare in plene bulidure, che già e prepare gli sricolti spesiarade. Iupe basse, vignai ben tirats, orts e vilis in file, sull'or de stradis, agis che corin pai fosai, e tanti olnars, e tanti sacazis, come maglis di vert, tal verdes campagnis. Ma in su, viars gli smons, la tiare devente sempre più magre, e si finiste pradarie secchie, te sgravis di glerie, che li sagis, e an strisinatiu de smons, con che opere lunghe di secui. Anche la vite culì e finis. Qualchi chiase e ven fur dai sterbs di lunga strade, di spiori sa trops si movin pai prats, si confondin te iarbe come in tun mar a ondis lungis e calmis. Cussi, fraltilimente la midune, parmis e mis i magrez e cognosin sol che pioris, baraz di spin e qualchi toc di tiare che l'ompa la tirat fur di queste arsitat, parmetti dentri filars di viz, bassutis, che i dan un vin fuart e clarut. Se tu ti volti sa chialain daur, co tu sesa mie gerive su pe pradarie, il voli al cor subit a quel vert lui font, laiu, sot domanins, du la che paese chiampanilis e cucin in file, Valvason, San Martin, Dursinins, e a mont pordenon cui si chiamins, a sorelli llevats Pilimberg, e il tiliment che slarghe pegri siei gravons in te planure. Se tu chialis, viars gli smonts che si parin denant come une murae più scure, tu scuviargis che altre file di campanilis. Midun, fane, mania, i pais legris che si distirin in plen soreli quasi a sotet de smonts. Su quest plan, pleat fra monte planure, fra i pais de alte e il verde base, al siviarzi un friul larche saren, plen di aere di soreli, come une isule fur dal tim, fermate in quest mar di arbe. L'islodulis si evin cae la fur dei sterps, si voltò in tal cil con tun legri strit, e po a plom e tornin giù tumbati di voli. Uniche vos in queste pradarie che scolte il ciulà dal vint e il burlaz cal bruntule di stan. Pal rest un gran silenzi, une calme che ti emple l'anime. Volintir tu ti senti sull'or de strade e tu scoltis la voce dal timp cal si è fermat su che schianton di Friul, fra mont e planure. È così bella e così varia la regione friulana che non saprimmo in vero come regolarci se fossimo richiesti di una scelta. Ascoltiamo Enrico Fruch, che dalle piane del Natisone ritorna dopo tanti anni a Moggio, in lui rimasto profondamente impresso per il pur breve periodo di insegnamento ivi trascorso. Amuez. O soi tornata, Amuez, e mi consolin che stair, che stismonz e che stein. Mi par che i ains mi colin di dues, e in cur mi sintin grumasi riguards de gioventù. Che staiar fresche pur cal vengiu da l'ismonz e che sun sur di aghe e a torpa i quei che i boschi di pings, di roi, di chastinars, paradis degli ucei in primavere. Fui di une preson, di che preson lusin che la città mi clami fortunat di tornachenci liber montagnul. E la mattina quan calciante il gial, la mattina buinore, o soi ca sul puiul a saluda la cime che s'indore lassù in som del chianal. Chiapi che stroi culì fra miez li spieris che sunin come veri sotto i colgi del baston, che st vagabondi troi cence giudizi che mi implante casù non sai parcè sull'or di un precipizi. Sbrunzule l'aupe ferrai ramaz, si vide il vapor sulla fele in lontananze, fumene chiarbonarie, qualche col di manarie tone tal bos e rimbombe in distanze. A poco, il sorelli si spande giù per l'ismonz e salta in fuori da un brenet un riquadro di luce, paesuz e stai piardus, cae là tal vert che saluti inchiantant la giornata serene. E la sere, culi dongie la fele, chialai, ise mai biele. Vai ul sorelli e al dà la pinelade di rose e montianine, di viole e montmariane. Vongolant lizerine, muov la ponte dei poi la bavesele, s'impie qualche illusor sulla ferade, s'impie une stele parzore la creste del Masaret. Quintri la magle scure d'une boschete, si viod l'abbazie blanche sul quel. Sune l'Ave Marie. E il sun lende campane, somè la vos di queste malinconie serene de nature. Ma un sunsur di lontan, ecco si sin, non è il sunsur de fele che corvie lusinta al clar di lune, e il sunsur va crescin simpli plui, doi voi di fuc son là tal scur e al civile il vapor calies de galerie. Po un lamp che il splendor di vagons al sparis dentri temon, e veiu là, di strade, i frus del caselant che cor in fur saltan sulla ferade. Ti saluti vapor, che tu vas via tegnot plen di lusors, forse plui di pingsirs e di dolor schiariat che di ligrie. Culi torna il cidin. Neris a plomp come scenari sotto il clar di lune e son gli smonz a tor. Svintule sulla cime dei poi la bavesele, plui quiete di prime torna la gnot di stat sull'or de fele. E chiudiamo con l'esaltazione lirica di Alan Brusini, che accomuna alle bellezze panoramiche del Friuli la robustezza della nostra parlata. Chialati, Vert Friul. Dall'usinza al tiliment, de montianine al mar, furlan a fevelin gli scumieris rossi e neris come il sang, e i gris sot sere e il vert, il to gran vert Friul. La femenute a neri col fazzoletto sul chiaf come nemuinie e l'om pelos disbotonat sul stomi. La campane a martiel che a claute sune par un fu e i classot il chiar dal chiarador calvose a mondi crosis. Anche la viarte e fevele par furlan a chi col frangel dal cansili e l'uri di teipane e la calandre de marsure sul lung trotà dal treno e il cuc cal par chiantà dentro di un poz. Darint al sudor dal contadin cal svangie cu la pale che lus in tal soreli tra la ciuculle e la tiare, dal marangon cal splane, dal manawal dut stricinitte vore. Furlan al sunà dai manarins, dai box de chiarne, il chian de mari che distrighe in chiase, de nuvizie che lave, l'insumiasi de frute che cus o che ricame. Il raspada i chiavai sul pedrà dal stali, il polvaron de strebisi upe basse, insom dei chiarsi in file. E il bintar cence sgnape stivai che non l'olse torna a chiase, il grugiulade qua e tesplanis de marzai tre semane, il buon odor dei turclis in tai curti di Moritz, e il frutat di Saurnian caltinti il so gubato il palusignul calzorne, tal nasabon de mente e de sagazis. Furlane la massanghe che dispede i raclis pai fasui, la stele e la colombe che il frutto almene abevi sulla poce, il vieli calgrate cul chianon la schene scrove. Vivi, tal verda i tuoi morars, Friul, e tra il beste am de stalis. Ievasi de vandì, parviergi la portele d'Indie cui polez, e dai la fue ai cavalis di smoz. La blave al biel polam, e po, chialati dai vignai fin sere, ore di mol zillat e di portalu, quand che si pre rosari, per robe tai chiam saviar, in man di Diu. Chialati, anche parchei ca son lontans, Friul, chei, che ti viò d'indignò a voi siarazzi. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo a cura di Ottavio Valerio.